YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Oh, buonasera, bentrovati. Ma da quanto tempo non ci sentiamo? No, sto scherzando. Ci ritroviamo insieme con una sigla diversa, che è quella che conoscete. No, è la sigla diversa da quella del Sabato del Villaggio, ma è la nostra solita sigla di RadioTube. Ma perché RadioTube c'è. C'è e lotta insieme a noi. Sai, c'è come sempre con Daniele Bellasio. Ah, grazie. È novembre oggi. Allora, voi potete continuare a scrivere a Marta, già certo. Da prima, a @marta Cagnola, e potete anche usare il mio @DiBellasio su Twitter, oppure potete usare l'hashtag RadioTube, come sempre, ecco. Per segnalarci il meglio della del rete, video, ma anche il peggio, degli audio, imperdibile, l'imperdibile, ma soprattutto l'imperdibilissimo. Ma sai che sta per finire House of Cards? Ho visto che è comparsa la scrittina finale di stagione. La prossima. Sei disperato? Sì, però per fortuna sta iniziando l'NBA, quindi il mio analista può attendere. Ah, io ho sempre questa concorrenza interiore. Ok, tra la psicanalisi, sì. House of Cards e l'NBA. Per fortuna si alternano cicliche. Tu hai di questi problemi? No. Io quando sono giù di morale ascolto i vecchi dischi di Loretta Goggi. Ah, pensavo Nick Cayman. Mi erano venuti in mente Nick Cayman. Non so perché. Ne avrà fatto uno Nick Cayman. No. Oggi si parla molto di anni 80. Torniamo a parlare di anni 80. Quindi, sì. No, però, dai, torniamo un po' al presente. Invece di House of Cards, l'anno scorso, sempre per evitare la psicanalisi, c'era Gomorra. Ah, quindi anche Gomorra ti faceva sentire bene. Quindi adesso tu sei in attesa. Sì, mi faceva dimenticare l'esigenza della psicanalisi. Molto bene, molto bene. Sei in attesa quindi della seconda stagione. Che arriva quando? Tu che sei tutto? La seconda stagione secondo me arriva all'inizio dell'anno prossimo. Stanno girando. In attesa della prossima stagione, per non sentire tanto la mancanza. Tu cosa hai fatto? Ho visto un film con lo stesso autore, Marco D'Amore, che tu hai portato qui. Certo. Ho visto Perez, ma non è male. Hai visto? Non era male Perez. Solo che lui, mi stavo chiedendo, lui come attore potrà fare per tutta la vita solo il camorrista a sto punto? Aveva fatto anche quel bellissimo film di Claudio Cupellini con Tony Servillo, anche lì faceva il figlio di un camorrista. Vedi? No, sai che io e invece dicono so... che lui assomigli. Io so, intanto ti dico che sta facendo un film molto diverso, però cioè, non d'amore. Si può dire, non si può dire, io so d'amore, che sta facendo qualcosa però. Di molto diverso. Assomiglia, eh? Erotico. No, con Tinto Brass. Daniele Bellasio è impazzito. Musical. Questo Sabato del Villaggio, Daniele Bellasio sì. Dà un po' alla testa. Ah, ma qua sono i 40, dice Valeria. Sono i 40 anni, dice Valeria. Regia. È successo qualunque cosa. Prima andiamo avanti, che sennò la scaletta non facciamo nemmeno il primo anni. Blocco. Parlavamo di somiglianze. Sì. Cioè, è uguale a Marco D'Amore. Però, c'è stata polemica, non è stato scelto per quello. Allora, diciamolo. Roberto Saviano. Sì. Ma davvero assomiglia, cioè, che allora, tra l'altro anche 000 diventa un film, una cosa. Serie televisiva che stanno girando però all'estero. Roberto Saviano assomiglia a Marco D'Amore, c'è un po' di somiglianza tra sì, Roberto Saviano. Allora hanno detto no, Marco D'Amore non è stato scelto per interpretare Gomorra perché assomiglia a Roberto Saviano, però intanto somigliano e poi ho scoperto che Roberto Saviano non è male come attore. È bravissimo, ma era presente o era un trucco? Sai che c'è la domanda in non lo rete? So, però sveliamo di cosa stiamo sì, parlando, se no sembriamo davvero matti. Noi i The Jackal li abbiamo seguiti fin dall'inizio, sì. Ci hanno fatto appunto un po' superare la mancanza di Gomorra con le loro parodie che poi nel frattempo sono diventati quasi spin-off ufficiali, perché anche sì. A Sky li conoscono, sì, cioè, esatto. ormai li la tutti. Usano come lancia della nuova stagione, esatto, gli dire. Effetti di Gomorra sulla gente, sì. De Fritture. Sta senza pensieri, cioè ormai le frasi di Gomorra sono diventate ancora più famose grazie alle parodie di The Jackal. Ne è arrivata una che nuova. Che successo? Ne è arrivata a una sorpresa. Nuova e hanno preso come attore proprio lui, proprio Roberto Saviano. Io sono molto stupita. È caduta la penna. Si può dire in radio? Sì. Si può dire. È caduta la penna. È caduta la penna. Sei rimasta molto stupita. E il Sabato del Villaggio, sai, mette quell'ansia. Sì. Sono rimasta molto stupita perché Roberto Saviano è un bravo attore. Sì. Però lo sentiamo, solo mostriamo una parte di questo, gli effetti di Gomorra sulla gente con Roberto Saviano alla radio. Eccolo qua. Ui, e chi l'ha d'usceme, Roberto Saviano? E chi l'homme e merda se sta facendo i sordi, gettando merda su Napoli, pure ti capi o no? E se acciappa Roberto Saviano e mi zavi, io sparo in bocca a Roberto Saviano! Io sparo in bocca a Roberto Saviano! Sono arrivate le fritture. Sì, c'era la fila al bagno. Che parlate così adesso, scusate, avete fatto tutti i personaggi. Bellissima, un sacco di ragazzini, tutti a dire due fritture, pazzesco. Stavamo parlando del fatto che questi ragazzini che giocano in questo modo su una cosa seria. Cioè, l'amore è una cosa seria, mica uno si può mettere a scherzare in questo modo. Io non la penso così, secondo me facendo così la smontano. Fanno bene a riderne. Ma sentivo che urlavate. Chi, noi? No, noi stavamo scherzando, ci conoscevamo da un sacco di video noi. Grazie mille, signor Saviano. Buon appetito, mi raccomando. Posso andare io? Fabio, sta senza pensiero. Beh, straordinario, che dice sta senza pensiero, è bravissimo. E ha ragione, bravissimo. Che no? Che ridendo la smonti. Sì, allora, dice bene. Lui comunque un po' la tentazione del pippone ce l'ha sempre. L'ha dovuto fare, no, un piccolino, un pistolottino. Ma era epigrammatico addirittura. No, no. Aspetta che adesso pistolotto epigrammatico. Aspetta cosa che segno segnare? Pistolotto epigrammatico, che così la imparo e la ridico. Hai questo weekend. Hai detto che potevamo anticipare una cosa. Sì, prima perché del vorrei traffico. Sentire un altro audio questa settimana, che non lo so se mi è piaciuto oppure no, sai. No, perché dopo sono successe delle cose di cronaca che erano più complicate da commentare. Però lui è venuto prima. Stiamo parlando di Maurizio Crozza, che parla degli operai. Questa volta ha parlato della Leopolda, sì, in maniera, secondo me, un po' aggressiva. Come lo definiresti? Cioè, dici tu? Che sta cambiando il vento. Vuoi dire che in televisione sta cambiando il vento? No, sto cercando di capirlo anch'io. Non so come mai, se è stato un episodio. Però sentiamo cosa ha detto Maurizio Crozza nella sua ultima uscita a Di Martedì. Va detto che a un certo punto hanno fatto entrare anche due operai della Thyssen, ma solo per vedere come erano fatti degli operai. No, guarda, sono come noi, poverini, avranno sete, provate a dargli una ciotola. Ma lo bevono il latte gli operai? Morderà mica? È castrato? Ah no, no, ce li ha i coglioni, e no, lo vedo da come gli girano. Vabbè, devo dire, all'inizio ho sorriso, però insomma un po' cattivella. È un po' poi, cattiva, vabbè, prima alla luce, dei fatti poi, di cronaca, alla prima. Luce poi di quello che è successo, insomma, non lo so. Però questa è stata, insomma, ma insomma, la toccata di questa settimana. Non abbiamo parlato poco della Leopolda, perché poi è successo tutto lo scorso abbiamo detto. Basta politica, sì, ma ne parliamo sì, più. Solo traffico, mandiamo quindi, il traffico. Quindi adesso mettiamo una canzone nel il prossimo blocco. Il traffico nel villaggio del sabato. YouTube. Ori, eccoci insieme dopo il traffico del sabato del villaggio, il traffico del villaggio del sabato, come ha detto poco fa Daniele Bellasio, ma la riconoscete, questa è la nostra sigla di RadioTube, perché comunque l'appuntamento con RadioTube rimane tale quale solo un'ora prima. Tale quale. Come direbbe Carlo Conti. Come direbbe un'ora prima, cioè dalle 17 alle 18 siamo stati promossi. Ah, è una promozione. Che figata, come dice mio figlio. È una promozione. Senti, sai che sta nascendo una stella nel mondo dei video social virali, pazzeschi? È una comica, è un'attrice, no, una cantante, no, è una ballerina? Veramente è un personaggio mediatico che sa utilizzare i social network anche quando sta nella televisione. Cioè lei, io penso che lei alcune scene le abbia immaginate prima di farle, proprio per finire nel blocco che noi stiamo per fare di RadioTube con i suoi spezzoni. A uso e consumo nostro. Pina Picerno, che è una parlamentare del Partito Democratico importante della Campania, renziana, diventata famosa perché sa fare la spesa. Ah sì? Sì. E sa utilizzare tutti gli 80. Tu che non vuoi fa? Che nominiamo più lontanamente gli 80 euro? No, gli 80 euro, il premier, tutto. Ma basta. Vabbè, comunque parliamo della Picerno. Rivediamo cosa fece come quando si a Ballarò fa. C'era? Quando ancora c'era Giovanni, Floris. Mamma mia, quanto tempo fa? Eccola qua. Cosa si fa con questi 80 euro? Io stamattina sono andata a fare la spesa, le ho portato questo scontrino, è una spesa di 80 euro. Che dimostra, diciamo, cosa ci si compra. Ne ha speso 80 euro, cosa ci si compra con 80 euro? Ma io, perché c'è stato anche allora, una 3 litri di latte, baguette in quantità 5 industriale. Baguette, insomma, lo guardi, un 3 chilometri di scontrino. Filetti d'acciuga, fettine scelte, macinato, bocconcini, insalata al lattughino, il saccottino fragola, i tortellini addirittura. Vabbè, ha fatto una bella spesa i tortellini, chissà. Floris chiaramente non ha mai fatto la spesa. No, cioè, che... tu dici, Giannini secondo te la fa invece? Ma Giannini può fare tutto quello che vuole, ma Giannini sì, con quello sguardo nel, non può so, fare quello. Il sabato del villaggio che... in fascia protetta si può dire tutto? No, quando dico le cose che non si possono dire avverto va, prima. Bip, no, avverto prima bip. Perché sai che ci sono in macchina le mamme coi figli, papà coi figli, allora io dico se sta per arrivare il momento parolaccia lo dico, avverto, lo diciamo. Avverto, no, questa volta nessun momento parolaccia, Pina Picerno, dopo forse. No, hai detto però che è diventata Pina Picerno una questa settimana, sì, no, questa settimana gli è scappata una frase con la vecchissima figura retorica, si dice così tu che sei una linguista, quando uno dice non dirò, no, non dirò, potrei dirlo, ma cos'è giammai. La preterizione, Cesare taccio, Camusso taccio, non vorrei dire una scemenza, sì. Cosa ha detto la Picerno? Valeria Bernardi ce lo fa sentire. Ad Agora. Perché sulla piazza, anche qua, io ho molto rispetto, a differenza di altri, per le piazze e per le manifestazioni, mi lasci dire che sono rimasta molto turbata dal leggere le parole stamattina di Camusso che dice a qualche giornale che Renzi, il governo Renzi è... Renzi al governo per i poteri forti. E allora io potrei ricordare, diciamo, che la no, Camusso... non lo possiamo ricordare perché abbiamo finito. No, la Camusso rappresenta la un potere forte, secondo lei? La Camusso, diciamo, io potrei dire, non lo farò, che la Camusso è eletta con tessere, diciamo, false, o che quella piazza è stata riempita, diciamo, con pullman di centrosinistra. Non lo farò, ragazzi. Non stato lo farò. Sei stato bravo, abbiamo googlato, sì, sì. È preterizione. No, sarebbe ma io contenta la professoressa De Maio. Potrei dire che Daniele Bellasio, ma non lo farò. Porrandissime polemiche per, insomma, dire... Tra l'altro una volta il PD, la CGIL dovevano più o meno andare non troppo lontanamente d'accordo, ma la Picerno però, giusto, esatto. ne ha combinate in televisione. Ma è tutte quelle ultimi giorni. Sì, io volevo fare... No, beh, questo è un po' prima. Pina Picerno Show. Pina Picerno Show. Sì. Beh, fammi facciamo un micro Pina Picerno Show, perché ad esempio lei ha attaccato anche il Movimento 5 Stelle, lei era invece questa volta servizio pubblico mi pare, sì. Ha attaccato il Movimento 5 Stelle, Grillo dice solamente no, e in quel momento però c'era ospite anche Matteo Salvini. Che ai tempi televisivi ce li ha. Questo. Senti, secondo me, poi ne parliamo dopo, ma secondo me è Salvini 1 Picerno 0, ma sentiamolo. Sì. Io, come dire, rimango sempre un po' sorpreso anche dalle sciocchezze che vengono sostenute in nome della necessità di racimolare consensi, anche questa sul ritorno alla lira, ma io capisco, lo posso accettare, guardate, da mia nonna che ha 89 anni, la filosofia del si stava meglio quando si stava peggio, ma non da chi ha l'ambizione di guidare questo paese, non da uomini politici, perché il ritorno alla lira oggi sarebbe una catastrofe, questa è la verità. Dai, e io sono anche convinta, fermo Salvini, ti spiego perché, che non ci credono nemmeno ma quelli che lo propongono, nonna in Parlamento, perché sono talmente... La risata che sentite era quella di Paola Taverna del Movimento 5 Stelle, e poi a questo punto la Picerno ha detto: ah, ecco, vedete, voi ridete insieme perché siete estremisti. 5 no, però Stelle, la Picerno ce l'ha con tutti, pure con sua nonna, perché in fondo era una critica politica a sua nonna. Ma infatti è dovuto intervenire Salvini, prima con Maddai, ai tempi televisivi si è inserito, gli ha rotto il filo del discorso, lei non ha sentito. Ma però, di lite. Però carino quando ha detto. Allora, meglio, no, meglio è stato bravo. Ma è stato bravo. Peraltro, Salvini, se non sbaglio, era in collegamento. Quindi sì, è più che difficile, è ancora più difficile. È però più anche difficile. La Picerno era in collegamento, no? No, la Picerno era in studio. Diventa più difficile quando sei in collegamento riuscire a inserirti nel momento giusto, perché magari non hai il microfono acceso. Sì, perché acceso, lo scontrino era preparato, ma di fronte a una battuta buona di un altro è più difficile. Sì, sì, sì. E con Sgarbi come beh, vabbè, con Sgarbi però, diciamo, con Sgarbi è Sgarbi. Siamo sempre sulla 7. Siamo all'aria che tira. Beh, sì. Ovviamente fanno il giro di tutti. L'aria che tira. Anche come tu ogni tanto vai. No, tutti i talk show. Ah, cioè dici che lì vanno tutti. Ah, no, io adesso Mirta, senti che dice Marta. Ho detto esattamente il contrario, questa assonanza. Ho detto che questi personaggi politici fanno il giro ovviamente di tutti i talk show. Ah, beh, certo. No, io la Merlino la guardo quando c'è ospite Daniele Bellasio. Ma Mirta lo sa. Anzi, salutiamo Sgarbi. Mirta Merlino, che è stata nostra ospite. Sì. Sempre Pina Picerno per il nostro Pina Picerno Show, e Vittorio Sgarbi. Sì. Io qui non so a chi dare ragione. No, vabbè, no, dai, non si dice merito, quella cosa lì. No, non per il merito, però allora... Ma non si dice quella cosa lì. Io ogni tanto quella torno cosa politico lì, non, si dice... non si dice quella cosa lì. Beh, però ascoltiamole, eccoli qua. Come detto, Vittorio? Idee fuse, dice Sgarbi. Beh, sicuramente migliori delle sue, Sgarbi. Sicuramente migliori delle sue, non ci vuole granché. Le mie idee si conoscono, le tue non sono mai sentite. No, no, io delle tue idee non ne conosco una. Le beh, non, non è così, no, non è così, lo conoscono tutti gli elettori che mi hanno votato, per esempio. Mai sentita. E anche oggi non è una sua valutazione che io rispetto. Totalmente fuse. Io è una sua valutazione che io rispetto. Sei diventata parlamentare europeo solo perché ti hanno messo al numero uno. Diversamente. Sei stata imposta senza un voto serio. Tu sei proprio il tipico parlamentare inutile. Quindi, tipico inutile, messa lì perché sei una donna. Tutte donne di quel Renzi che ha bisogno nulla. Di fare lo spiritoso, vi fa diventare sue cameriere e vi mette al posto che decide lui. Dai, questo è Renzi. Ecco, questa cosa io la rigetto. Che non devi rigettare, è un dato di fatto. E lo dice la cameriera di Renzi. La cameriera di Renzi, idee fuse. È una vergogna inaccettabile. Lei è un misogino. Allora, lui ha torto, però si dice misogino, ma non si dice misogino, sì. Non misogeno. Però per spezzare una lancia a favore di Pina, leggo qui su Wikipedia che comunque lei per diventare europarlamentare del PD nella circoscrizione meridionale ha preso 224.003, uno di questi tre magari era lo stesso Sgarbi, non so se dovevo, no scherzo, e insomma 224.000 preferenze, ora certo. Usare cameriera. Però non so se ha fatto solo il liceo poi... class, non lo ma so. Ma che c'entra? Ma che bisogna aver fatto oggi? Ma guarda te, guarda te. E poi comunque... è la classica risposta che un uomo dà una femmina. No, un no, maschio ma infatti da una ho detto, lui è sessista e insopportabile. Fa... No, lui è sessista e insopportabile. Però lei ha. Però non si fanno gli errori d'italiano, va cari bene. Ragazzi, che per caso siete all'ascolto ecco, di Radio Tube, momento educational. Ma sabato non c'è scuola. Sabato non c'è il pomeriggio. Sabato pomeriggio devono andare a scuola. Poverini, vanno già a scuola sempre. Sabato sempre del villaggio a scuola, era proprio quello che non si andava. Chiudiamo con queste polemiche politiche. Sì, chiudiamo perché... perché abbiamo parlato tanto. Questa è tua. Intanto diciamo, l'hai scovata tu. No, ma sai perché? Adesso ti dico anche come. Tu l'altro giorno mi hai scritto una mail che non capivo. Sì. E mi dicevi di aprire un sito e io non capivo cosa mi stessi dicendo. Ho aperto quel sito e in quel momento c'era la diretta degli interventi sul decreto Sblocca Italia. E ansiosa di sentirli tutti? No, ti sei e collegata. Proprio in quell'istante, cercando di capire cosa volessi e io non capivo, perché mi mandavi queste mail che non capivo, c'era Massimo De Rosa, vicepresidente della Commissione Ambiente della Camera, 5 Stelle. Che ha detto 5 Stelle, che ha detto una frase che sembra riferirsi proprio a quello che di Renzi abbiamo detto molto, ovviamente lui lo fa in senso molto critico, ovviamente, della capacità di comunicare sui social media di Matteo Renzi. Ecco come ha commentato. L'hai nominato tu, Sì, l'ho detto io, Massimo De Rosa. Se il decreto verrà approvato, preparatevi ad affrontare schiere di cittadini, associazioni, comuni e avvocati, tribunali già pronti a impugnare la legge. Vi seppelliranno sotto le carte. Il decreto viola il titolo quinto della Costituzione, ma il governo è talmente abituato a saltare le procedure che pensa di poterlo fare tra un gelato e un tweet. Hai capito? Cioè, noi parlavamo della del fatto che grande ghostwriter dici, eh? E che non so in quanti abbiano colto questa battuta, però abbiamo parlato di Renzi col gelato, sì, e lui subito sì. Tra un gelato e un tweet. Va bene. Chi va di bene. Gelato ferisce, di gelato no, perisce no, però insomma, però, insomma viene criticato. Il Parlamento viene criticato per queste cose frivole anche. Abbiamo parlato di misoginia con la I. Con la I. Adesso invece parliamo male di uomini. Radio Tube. Rieccoci insieme dopo la pausa. Io avevo detto che avremmo parlato di cose un po' cattive nei confronti dei maschietti. Però ricominciamo dando i nostri account di Twitter. Il mio è Marta Cagnola, il tuo è Di Bellasio, l'hashtag è RadioTube. Poi da lunedì il podcast. Bravo. Ma anche di tutto il sabato del villaggio. Ma c'è già c'è l'hashtag, bisogna accorciarlo. Io ho deciso di fare un hashtag acronimo che ISDV. Il sabato del villaggio. Sono arrivato. Come le serie televisive. Allora, io adesso ci sono successe un po' di cose durante questa settimana che hanno creato polemiche. Io adesso di ognuna di queste ne dobbiamo dire che cosa ne pensiamo, perché tutta la rete facciamo una roba autoreferenziale. Okay. Perché tutta la rete discute di queste cose qua che sono successe. La prima, su questo personaggio noi abbiamo già detto molto, perché siamo arrivati subito. L'abbiamo scovato subito. Si capiva che il viperetta già nell'aria, il viperetta già ci piaceva da subito. Io lo conoscevo già peraltro per ragioni cinematografiche. Solo che ti confesso che all'inizio non avevo capito che era, che era la stessa persona. Ha comprato la Sampdoria. Non avevo collegato le due cose. Io lo conoscevo già. Ho comprato la Sampdoria. Squadra di calcio che ha perso contro una squadra con le strisce nero e azzurre. C'è una squadra con prima di perdere, il presidente ha detto una cosa un po' spiacevole. Aveva deciso di sostenere con grande vigore con grande affetto Moratti. Ecco, e chissà che non sia stato un abbraccio magari non troppo troppo efficiente. Sentiamolo. Stadio Sprint su Rai 2, ecco cosa ha detto Ferrero, detto ormai da tutti viperetta, su Moratti. Io gli ho detto a Moratti, caccia via quel filippino, no, che ha preso a fare. Presidente, come lei ce l'ha cotto il presidente, attenzione, che è indonesiano, peraltro, che è indonesiano. È indonesiano, voglio dire. Ma non doveva difenderlo, no? Vabbè. Scusa, che viene da Indonesia a insultare un emblema del calcio italiano. Se ero Moratti io ho dato due pizzicotti sui ricchi. Ecco, meno male che ha detto pizzicotti e non ha detto qualche altra cosa. Si fermi un attimo. Si fermi un attimo, perché adesso andiamo un attimo. No, comunque voglio molto bene a quel signore... A chi? Indonesiano. A Toir. Pensa se gli voleva male, voglio dire, cosa poteva dirgli, voglio dire. Vabbè. No, però non mi deve toccare Moratti. Moratti no. Non glielo deve toccare. Beh, devo dire, il conduttore è bravissimo, perché ha riso, ma smorzato, però gli ha detto, vabbè, variale, bravissimo è stato, perché comunque gli veniva da ridere. Sì. Però capiva che era una battuta un po'... No, non si fa. Siccome è stato sentito tante volte... L'abbiamo sentito tanto alla zanzara... Qui il giudizio è rapido e veloce. Direi che non si fa. Direi che è un no. Però posso dire che ormai per me è un no. Ormai è indistinguibile dall'imitazione di Crozza. No, anzi, Crozza è moderato. Crozza è un filo più moderato. Lo smussa, lo rende più elegante. Sì. Beh, poi c'è stato qualcuno che ha fatto una controgaff, la Cristilla, anche insomma, anche lì. Anche lì, stile Juve, mi taccio. Non ne parliamo, le preterizioni, mi taccio. Perché sennò poi ritorniamo con... Grandi polemiche, anche qui veniamo invece dal cinema alla musica. Grandi polemiche su, come si chiama di nome? Robbie Williams, un ex Tech Dead che è diventato famosissimo anche come cantante singolo. Sono preparato, la so. Sì, bravissimo, ma anche musica abbastanza moderna per i tuoi gusti. Ti stai avvicinando alla contemporaneità a larghe falcate proprio. Dopo abbiamo un ospite nuovissimo. Allora, fantastico. Che cosa ha combinato Robbie Williams? Ha cantato in diretta, dove è ovvio che uno canti una canzone. Ma certo, ma soprattutto facendosi riprendere. Ma era sua moglie quella. Certo, sua moglie in travaglio che sta per partorire. Lei con la faccia... È arrabbiata, secondo me. Sì, lei con la faccia di quella che forse dice: io sto partorendo, ecco, quindi diciamo che non sono proprio in una situazione agevole. Se avesse sposato un avvocato, cosa c'era? L'avvocato lì che faceva, degli una comparsa atti mentre... E invece cosa ha fatto Robbie Williams? Vediamola alla radio. Pull your arms back from that. Let it go. I'm one with the rain and snow. Here I stand in the light of day. Let it out. Big deep breath in. Let the wind roll on. Hold your breath. Push. One. The cold two, never bothered me three, anyway. Babe, can you stop singing Frozen? Sorry. Lei è fantastica, puoi per favore smettere di cantare Frozen? Ma perché le polemiche? Perché questo è il lancio del suo disco? Ha fatto un product placement, un figlio placement, ma è una roba gravissima, ma non è vero, dai. No, allora questa non è la sua nuova canzone, è la canzone della colonna sonora del film Frozen, cioè Let It Go. Voleva in realtà, poverino, distrarre Aida, la moglie, o Aida. Ma ha funzionato? Però, bada come lei era arrabbiattina. Ecco. No, però detto io, per cosa, me ma... stavolta è un ni. diciamo è un ni, magari voleva essere semplicemente romantico, è un ni. No, ma infatti lui poi ha postato questa frase: non sono mai stato più innamorato e più orgoglioso di mia moglie, che spero poi gliel'abbia proprio rincorcato di legnate. No. L'universo si è presentato nuovamente davanti ai nostri occhi e siamo molto emozionati, è stato bello condividere queste ore e questo viaggio con voi. Io vorrei anche la posizione di lei, che secondo me era molto meno contenta, ma si sa che le donne dopo il parto si dimenticano tutto. Questo secondo me Aida non se lo dimentica. Ma voleva che il bimbo subito sentisse la voce del papà, e siccome la voce del papà canta... Certo, come Locchetta Martina, l'imprinting. È un passo. Quello che invece è un no. È un noissimo, è un noissimo. Io sono... Guarda, l'audio è molto breve, dobbiamo spiegarlo questo video. Tutti, io sono... È un no. Indignata. L'audio è piccolino. Mostriamola alla radio. Diego. Allora, io sono molto arrabbiata. Diego Armando Maradona, non capisco se ubriaco. Stranito, spero, si è difeso. Spero che non fosse lucido e presente. Si è difeso dicendo che voleva solo toglierle il cellulare, diciamo. Però ecco. Beh, ma non si fa così. Lei e l'ex fidanzata, Rocío Oliva, aveva filmato questa scena, stava usando lo smartphone. Come lui è arrabbiato, le dice: smetti di filmare, smetti di usare il telefonino. E giustamente, cosa fa? Sai, per toglierlo dalle mani. La meno. Allora, il video è stato diffuso durante la trasmissione televisiva Nosotros al mediodì, a noi a mezzogiorno, trasmessa da Canal 3 7TV, e sta facendo il giro della rete. Questa cosa è molto brutta. Diego, fuori dal campo ogni tanto, Gliel'ho strappato di mano e l'ho buttato via, ma giuro che non ho mai alzato le mani su di lei. Sì, però a me basta già così per dire che è molto, molto, molto... No, ma molto no. Voltiamo pagina. Io qua sono invece per una cosa che è un esperimento, no? Sì. È un esperimento. Sì. Allora, descriviamolo. Shoshana Roberts, 24 anni. Com'è? E puoi ridirlo, sembri in bolognese. Si chiama Shoshana. L'hai detta la bolognese però, scusa. Vabbè. Si chiama Shoshana. I suoi genitori l'hanno battezzata Shoshana. Cosa ha fatto? Si è vestita? Jeans e t-shirt neri. Sì. Abbastanza aderenti, sì, abbastanza aderenti, non particolarmente... Capelli vaporosi. Sì, lei normalmente carina, non particolarmente appariscente. Una punta matronale. Passeggia a New York. Sì. Cosa succede? Guardiamo questo video per qualche istante. Eccola qua, voi avete sentito un po' di "How are you doing?", un po' di persone che le si avvicinano. Insomma, lei non riesce mai a camminare tranquillamente. Sì, la segue qualcuno, volte, no? Sì, 108 volte in 10 ore. C'è qualcuno che la precede probabilmente con una camera in uno zaino. Sì, ma ha fatto vedere che era nascosta. Sì, credo che fosse, insomma, sulla schiena, perché lei viene ripresa di fronte. No, io sono veramente curioso di sapere che cosa ne pensi, perché diciamo il confine a volte è labile. Alcuni di questi vogliono attaccare solo bottone. Sì, devo dire che alcuni vogliono attaccare solo bottone, e da donna ne tieni conto senza farci più tanto caso. Come diceva Fiorella Mannoia, forse ci fai caso quando non ti fanno più i complimenti. Quando uno semplicemente le dice "come stai", "how you doing", della sì, saluta, forse quello non... Sì, una roba culturale, per esempio, non lo so, a me... Pare, no, che nelle città più del nord Europa questo tentativo di attaccare bottone per strada sia una cosa gravissima culturalmente. Sì, sì, sì. Invece, per esempio, che... a Roma è una cosa un po' più frequente parlarsi per strada anche tra non amici, conoscenti. Ecco. Ecco, fino a qui sì. Ci sono invece alcuni momenti che sono decisamente più inquietanti. Ci sono persone c'è una persona che la segue per 4 minuti senza dirle nulla, le si affianca e le cammina vicino in maniera molto ostentata e molto chiara per 4 minuti, e credo che questo sia molto inquietante. Assolutamente. E persone che tentano di attaccare bottone anche in maniera piuttosto aggressiva dal punto di vista verbale, questi mi hanno disturbato molto. E comunque qui la rete aiuta comunque a raccontare una cosa e anche a noi che guardiamo questo video farci un'idea delle gradazioni di cose che si possono vedere nella vita di tutti i giorni. Può essere un modo anche per segnalare appunto le differenze di tono nella gravità delle cose. C'è un altro video di cui noi non abbiamo parlato e di cui io preferisco non parlare, perché è quello di Brittany Maynard, quella ragazza che ha annunciato... È una storia su cui, sì, bisogna meditare, che ha annunciato che ci ha ripensato per il momento. Che ha annunciato che, insomma, lei è malata terminale, ha fatto un video annunciando che si sarebbe tolta la vita nel momento in cui le sofferenze fossero diventate troppo acute. Non lo so, forse i quotidiani ne stanno parlando troppo, i giornali online ne stanno parlando troppo. E se posso dire una cosa, l'ultimo video che ha postato io l'ho aperto da un quotidiano a caso ed era preceduto da 30 secondi di pubblicità, vabbè, e questa cosa mi ha un po' ferito. Purtroppo, però, succede così. Però io su questo tema mi sento un po' di dirla tutta. Ora, se ci ripensa anche solo una volta, non vuol dire che è meglio ripensarci del tutto. Diciamo che è un tema sul quale riflettiamo. Radio Tube. Come passa il tempo quando ci si diverte? Si passano 3 ore insieme il sabato pomeriggio, ma beh, tante, io per tantissime. Fortuna solo una con te, perché per tre non so se ti reggo. Però chissà in futuro. Mi piace questa cosa, che siccome la domenica, per il momento la domenica Radio Tube non c'è più, mi piace questa cosa che le grandi star me le hai portate al sabato. E quindi il sabato diventa il mio giorno preferito. Ah, ma meraviglioso, anche perché tu mi hai confessato che c'è un pezzo che ti piace tantissimo. Sì, ho visto che hai scelto solo i miei due preferiti e hai lasciato fuori il tuo. No, ho scelto solo i miei, poi dirò anche qual è il mio preferito. Vabbè, però ho scelto però i tuoi due preferiti. Con lui. Sì, con lui parliamo di televisione, ma bastano pochissime note per capire chi è il nostro ospite. Subito. Su di noi ci avresti scommesso, tu su di noi mi vendi un sorriso, tu se lo vuoi andare a sognare, sperare così. Io la vorrei ascoltare tutta, la vorrei ascoltare in regia? Tutta. In regia stanno ballando. Sono arrivati altre persone dagli altri studi. Ma infatti sembra una versione live, in realtà sono i nostri tecnici che stanno facendo pubblico. Buonasera Enzo Ghinazzi Pupo. Salve, buonasera, che piacere. Sentire poi le note di su di noi. Ecco, questo volevo chiedertelo subito, ma ecco, adesso ti dà ogni fastidio oppure no? Perché non ne potrai più. Ma scherziamo, è un piacere, sono 34 anni fa io cantai questa canzone a Sanremo e ancora oggi la ritengo, insomma, il mio portafortuna. Beh, ogni volta che la sento mi dà gioia. Bene, sono molto contenta perché... Dà energia. Sì, perché noi poi l'amiamo così tanto. Però dobbiamo fare i complimenti a Pupo. Complimenti perché è diventato direttore editoriale del Dipartimento Game Show di Agon Channel. Ora dobbiamo spiegare, i nostri ascoltatori già sanno di questo progetto perché ne avevamo parlato con Alessio Vinci, cioè questa televisione tutta italiana, in italiano, con conduttori italiani, tutta fatta per l'Italia ma fatta in Albania, quindi un esperimento nuovo e interessante. Pupo, cosa dovrai fare tu? Allora, esattamente io, quello che dice il comunicato, quello di io mi occuperò dei game, sono 4 giochi, 4 game show al giorno che Agon Channel metterà in palinsesto a partire dai primi di dicembre, fine di novembre, e quindi mi occuperò di curare questi giochi. Uno addirittura, quello di punta, lo condurrò, quindi farò quello che da quando faccio televisione mi è sempre piaciuto fare, questo genere di cose, insomma, qui lo potrò fare ancora con più con più dedizione, perché mi occupo appunto anche degli altri, sceglierò i game, i conduttori, insomma, ne curerò tutte le parti, le emozioni che danno questi giochi, perché insomma sono anche quello che danno, no? I giochi non solo per intrattenere, ma anche per dare delle emozioni al pubblico. Ecco. Io ho letto che uno sarà musicale e già, vabbè, già sono una fan, ma io sono curiosa una perché... canzone per 100.000. Sarà 100.000 persone. 100.000. Chissà. Ma no, 100.000. 100.000, non si sa. Quello che conduco io. Non si sa. Sì. Ma ho letto che però c'è anche qualcosa che riguarda il body painting. No, questo è bellissimo. Sì. No, ma io sono rimasta sconvolta. Che cosa si può, cosa si può fare? Sì, è una cosa molto divertente perché uno può pensare subito a qualcosa di, che so, di sopra le righe, di volgare, poi dice, cioè, c'è il pupo di mezzo, chissà questo che si è studiato. Che è un po' malandrino. No, questo è un game molto, molto divertente, credo che piacerà molto al pubblico. Lo metteremo nelle mani di un conduttore nuovo, abbiamo già fatto dei provini e qualche idea già ce l'abbiamo, ed è i concorrenti, che sono uomini e donne, troveranno domande e risposte scritte, anzi dipinte, anzi artisticamente dipinte nel corpo di uomini e di donne gradevoli. Bello. E tra le idee, Marta, sì, ne ha segnalata una molto carina, perché noi qui parliamo molto di social network, soprattutto di Twitter. Io sono pazza dell'account di Twitter di Enzo Ghinazzi, cioè Pupo, perché tutte le mattine io mi sveglio e c'è un buongiorno arte. Cioè tu tutte le mattine twitti delle bellissime opere d'arte, perché iniziare la giornata con un'opera d'arte è bellissimo. Ma come ti è venuta questa idea? È favolosa. Allora, io sono un appassionato e un piccolo collezionista di arte contemporanea, cioè, a casa mia una non vi aspettate chissà che, ma insomma qualcosa di carino, e questo dagli anni '80, nonostante Gelato al cioccolato o altre canzoni, cioè c'era una parte in me più alta. Ora, se di alto si può parlare in un uomo, insomma, delle mie dimensioni, però sono un grande appassionato di pittura, e ho raccontato attraverso questo Buongiorno Arte, perché io non uso quasi mai Twitter, tranne che in casi particolari, non sono fissato dei social network, infatti non vado neanche su Facebook, c'è un collegamento tra il mio Twitter e Facebook, non rispondo quasi mai a nessuna domanda che mi fanno i miei follower, però ho voluto così far vedere che si può davvero cominciare la giornata se riusciamo ad avvicinarci all'arte. Ho raccontato dal 19 di agosto 2013 tutti i giorni la storia dell'arte. Sono partito dai fondi oro del 1300 e dall'inizio dell'arte, dal Giotto, anche da prima di Giotto, fino ad arrivare, pensa che in questi giorni saranno gli ultimi, e poi non potrò più farla quotidianamente perché non ho più niente, non dico da dire, ma andrò a scoprire nuovi pittori, nuovi talenti, quindi sarà settimanale, non sarà più quotidiana, perché ho raccontato tutto, attraverso anche la pittura russa, attraverso quella americana, quella fiamminga, insomma dappertutto. Ieri per esempio c'era il giorno di Ferdinand Oedler. Meraviglioso. Ma le guarda, sono belle. Alcune cose non le ho pubblicate perché erano un po' troppo spinte. Esempio, volevo chiudere con un disegno meraviglioso che rappresentava l'origine e la fine della vita di molti di noi. Forse abbiamo capito. abbiamo capito. Sì. Vabbè, allora, hai citato Gelato al cioccolato. Noi ce l'abbiamo, anzi chiediamo a Valeria di metterla in sottofondo. Così tornano tutti dagli altri uffici. Esatto, tornano tutti a ballare. L'ho presa perché è l'altra canzone preferita di Daniele Bellasio. Guarda, ho scelto le tue due preferite, non ho scelto la mia. La tua però dilla. Ah, la mia canzone preferita di Pupo, anzi magari dopo twitto un video, è Dove sarai domani. È la mia preferita in assoluto. Oh, sono contento. Condivido. Io la amo particolarmente, io sono affezionata a questa canzone, se non tutti la conoscono adesso la twitto, così la conosceranno tutti. No, guarda, la canzone fa così. Ma tu dove sarai domani? Io ti cercherò per le strade del mondo, se tu mi abbandoni, io ti troverò. Ecco, oh, che meraviglia, che meraviglia. Sono emozionata, Cagnola, Pupo in diretta che canta. La mia canzone preferita. Grazie Enzo, so che adesso stai preparando nuovi concerti, anche come sempre da esportazione, ti chiameremo ancora allora, dai, possiamo chiamare ancora. Adesso partiremo per un tour in Russia con la, diciamo, la banda dei melodici anni 80, Albano, Romina Power, Gianni Morandi, Umberto Tozzi. Andremo in Russia, a Mosca, a Minsk, in Bielorussia e a San Pietroburgo per portare un po' di gioia, di allegria, senza vergognarci di essere felici, sereni, cantando le canzoni italiane. Io faccio la valigia, vado sì, con Pupo, appunto, ciao infatti. Daniele, stai qua, ah ok, lasciamo la radio, noi veniamo con te. Arrivederci, grazie, ciao. Grazie Enzo, a presto ciao, allora, grazie mille. A presto, beh, che bello! Come passa il tempo? Sabato del Villa, come è proprio su quello, questo... sul fatto che passa così velocemente. Passa velocemente, sembra sei tanto, stanca? Sono tre ore, sono sfinita ma sono felice. E quindi salutiamo con la sigla di RadioTube, perché l'ultima ora del Sabato del Villaggio è il nostro RadioTube, sì, di Daniele Bellasio e di Marta Cagnola. Ci ritroviamo quindi con sabato. Il Sabato del Villaggio, sabato alle 15, alle 17 con il nostro appuntamento con RadioTube. E quindi buona domenica a tutti! Ciao!